io amo dire che io sono un presidente tifoso e non un tifoso presidente. Io gestisco, ho detto, anche gli interessi degli altri, quindi non posso fare come la cicala che oggi esiste e domani non esiste. Io devo, questa società la devo tramandare. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Fine della partita. Sono le 17:45 del 12 maggio. La Lazio, che ha battuto il Foggia di misura e su rigore, è campione d'Italia per la stagione 74-75. Da tutti i settori del campo convergono verso il centro i tifosi che hanno atteso per mesi in questa partita con ansia spasmodica questo grande momento. È la prima volta che la Lazio, in 74 anni di attività, riesce a raggiungere il massimo traguardo. Ieri va alla caccia del pallone e poi c'è il tiro strepitoso da parte di Nedved. È finita, la Lazio conquista la Coppa delle Coppe, il suo primo grande trofeo. Collina dichiara concluso il confronto. Sono le 18:04 del 14 maggio del 2000. La Lazio è campione d'Italia 1999-2000. E allora sono i tifosi stessi qui all'Olimpica a gridare quelle due parole a lungo, per tanti anni soffocate: campioni d'Italia. Poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio. Fischia la fine alzato. La Lazio ha vinto la Coppa Italia. Questa vittoria, diciamo, che rimane, non si dimentica, diciamo così, una grande vittoria, soprattutto contro Roma, è una cosa incredibile, incredibile, incredibile, incredibile, incredibile, incredibile, incredibile. Parte Cataldi, la palla in rete! La palla in rete, il 3-1 della Lazio, è il gol della vittoria. La più bella, questa è fantastica, l'abbiamo voluta con forza, ottenuta e soprattutto meritata questa Supercoppa. Beh, Gianmarco Ferronato e Claudia Schiattone hanno trovato una nuova suoneria per i cellulari dei tifosi laziali. Pierluigi Pardo, buongiorno. Un po' lunga, ma penso che non risponderebbe nessuno al telefono, aspetterebbero la fine. poi entra la segreteria telefonica direttamente. Esatto, però. No, certo. Ciao Pier, certo che tempo di compleanni importanti, il primo pensiero è che quello della Lazio è molto più dolce di quello del Milan, che è stato il mese scorso. Bandiera della Lazio presente alle celebrazioni di questa mattina, l'ho visto anche intervistato, Bruno Giordano, ciao. Buon pomeriggio, ciao, a tutti. Ciao. Giulio Cardone, bello, sì. Ciao, Giulio Cardone, buongiorno. Buongiorno, collega, buongiorno, di Repubblica, laziologo, laziale. Ciao Giulio. Senti, ciao. Bruno, fai tu gli auguri all'Aquila, dai. Tocca prima a te. Auguri. Cosa ti ha dato l'Aquila? Una casa, perché mi ha accolto che avevo 13 anni, mi ha insegnato a vivere in campo e fuori dal campo. Io dico sempre che è una grande famiglia, che ti puoi ritrovare a distanza anche di 10.000 chilometri, però incontri un laziale, non so, in America piuttosto che in Australia, sembra che stai a casa. Per cui basta un angolino del mondo che vedi uno spicchio bianco celeste e ti senti a casa. Per cui questa è la cosa che porto nel cuore e mi sento di dire. Poi è chiaro, ci sono tante altre situazioni, però ecco, la Lazio è questa, credo. Sì, anche perché, bravo Bruno, bellissimo, anche perché Pierluigi viene da dire che per estrazione la Lazio è a Roma, correggimi se sbaglio, la squadra della buona borghesia, dei ricchi che viaggiano molto, quindi li trovi in tutto il mondo. Anche Giulio mi può aiutare. Beh, è la squadra, sì, ma insomma ci sono zone della città più romaniste, zone della città più laziali, intorni di Roma, credo per un motivo essenzialmente legato al nome, tendono a essere più laziali che romanisti. Alcuni quartieri storici e popolari di Roma sono più romanisti che laziali, ma insomma qui stiamo celebrando un grande club e la bellezza del gioco. Oggi Luca Di Bartolomei, figlio del grande Agostino, ha pubblicato una foto fantastica, un tweet bellissimo, ovviamente da tifoso della Roma quale lui è, in cui si vede in un famoso derby dell'amicizia giocato per raccogliere fondi per la famiglia Paparelli nel novembre del di quell'anno terribile, si vede proprio Bruno Giordano di fianco alla consiglia di Bartolomei. Il calcio è questo, il calcio è assolutamente questo, è nella rivalità che può essere anche feroce nei 90 minuti, ma che poi deve essere sempre leale. La Lazio festeggia alla grande questi 120 anni, un po' perché è un compleanno tondo, quindi è chiaro che 120 fa più effetto di 119 o di 118, e un po' perché è un momento di spolvero totale di questa squadra che è stata costruita piano piano, che è stata costruita senza voli pindarici, è stata costruita forse più per sottrazione che per addizione, attraverso i giocatori che non sono partiti, attraverso un allenatore che si è fatto dalla cantera, che si è trovato in casa, ed è un compleanno speciale, penso, veramente come pochi ce ne sono stati nella storia della Lazio. È spuntato anche Alessandro Marcottulli, che è laziale, è venuto ad ascoltare il programma direttamente da qui. Ha scaricato la suoneria, tra l'altro. E ha scaricato la suoneria, l'ha subito messa sul cellulare. No, Giulio, possiamo dire, a parte che in questo periodo, un po' come a Ferragosto, sognare è gratis se puoi farlo, e la Lazio può farlo. E poi voglio sentire Bruno, dato che insomma li ha conosciuti tutti e due, è un po' l'Otito Dei. Possiamo dire che qualcuno verranno i brividi, ma è il più grande presidente della storia dell'Aquila, insieme a Umberto Lenzini, no? Presidente dello Scudetto 74-75, presidente dal 65 all'80, Lotito dal 2011, il tassametro corre, poi su Cragnotti fate voi. Parlo io? Sì, vai. No, ti dico, adesso il più grande presidente, lui è dal 2004 che è presidente, 15 anni e mezzo, devo dire. Insomma, Lenzini ha vinto lo scudetto con una squadra incredibile, hanno giocato quasi sempre 11-12 giocatori quell'anno, una banda di pazzi incredibile, e ha fatto un'impresa eccezionale. Cragnotti ha vinto, è il presidente, diciamo, che è più vincente della storia Lazio, perché ha vinto 7 trofei, no? E addirittura la Supercoppa Europea nel 99, insomma, cose incredibili. E poi c'è Lotito, che sta facendo delle cose, perché insomma 10 finali in 10 anni, 6 trofei negli ultimi 10 anni, insomma cose veramente incredibili. Se si da un certo punto di vista, lo so che Bruno forse avrà mi aggredirà adesso, però da un certo punto di vista è più simile, no, la sua i suoi trionfi, la sua gestione, il suo modello è più simile a quello di Lenzini che non a quello di Cragnotti, perché anche Lenzini, quella squadra lì, nessuno si aspettava un exploit da una squadra che era appena riemersa, no, dalle sabbie mobili della Serie B, e in pochi anni, in 2 anni, è andata a vincere lo scudetto, quindi con risorse sicuramente inferiori agli squadroni, alle società del nord. In questo senso devo dire che Lotito, no, io lo chiamo sempre la Lazio la terza incomoda, no, in questo periodo almeno. Con risorse che sono, oggi ricordava lui al Salone d'Onore del CONI, dove è stato celebrato l'anniversario, no, della Lazio, i 120 anni, ricordava insomma il fatturato della Juve quintuplo, no, rispetto a quello della Lazio, siamo a tipo 500 milioni contro 150, non lo so, fate voi il conto, per cui è una cosa abbastanza incredibile, no, che poi si vinca, che poi la Lazio riesca a vincere 2 volte in 15 giorni contro la Juve. Devo dire, da questo punto di vista, grandi meriti sicuramente alla gestione, al modello gestionale di Lotito, gli vanno dati. Bruno? No, ma io sono d'accordo in tutto e per tutto. È chiaro che io porto il mio presidente, che è Lenzini, perché è stato il primo a portarci un tricolore di quel valore, e soprattutto l'ho avuto come presidente da calciatore, ho un rapporto straordinario, cui nessuno nega quello che ha fatto Cragnotti e lo stesso Lotito sta facendo. Però ecco, io mi rivedo molto, forse perché appartengo a un calcio un po' datato, mi rivedo molto in un presidente come Lenzini, anche se c'è da riconoscere che Cragnotti con il suo impero e Lotito con la sua parsimonia, il suo modo di fare, uno ha fatto grandi risultati e un altro li sta facendo. Bruno, contando dei tre presidenti, insomma, più importanti della storia della Lazio, su questo non ci sono dubbi. Sì, poi è chiaro che Pistole e Palloni, che mi è venuto in mente sentendo Giulio parlare, è un libro bellissimo di Chiappaventi che parla di quella squadra del 74. Come no? Pistole e Palloni, se non sbaglio. Pistole e Palloni, sì. Forse in qualche libreria dello sport si trova ancora, io l'ho letto ormai una decina di anni fa. È un libro straordinario per i libri di calcio, perché quella era una squadra perché aveva onestamente una follia al suo interno, sì, con due spogliatori, due gruppi che si odiavano durante la settimana e che poi però in campo facevano cose incredibili. Quindi una delle storie di sport sicuramente più interessanti e anche più divertenti, poi anche più drammatica, perché sappiamo che è stata, diciamo, attraversata anche da vicende molto sfortunate e molto tristi dal punto di vista personale, però è veramente un bel libro che ricorda quegli anni. E lo titolo ce l'ha detto ieri Michele Plastino, cioè è difficile fuori da Roma, secondo me, capire fino in fondo il livello di conflittualità che c'è stato da parte di una parte significativa, non soltanto la curva, anche molti tifosi di Lotito negli anni. E i risultati oggettivi sono dalla sua parte, in questo periodo in maniera assolutamente splendente, qualche anno fa magari un po' meno, ma comunque sono sempre stati dalla sua parte. Poi la Lazio ha vinto la Coppa Italia anche tipo 10 anni fa contro la Sampdoria, cioè comunque si è presa dei trofei, è andata al di là e molto al di sopra di quello che è il suo fatturato, per essere così un po' razionali. E mi pare che anche dal punto di vista del feeling con la tifoseria, non so se Bruno e Giulio lo confermeranno, è cambiato parecchio. Ci sono state alcune operazioni, la famosa maglia bandiera di qualche anno fa è stata un'operazione molto fortunata, perché ha ricompattato un po' il senso della razionalità. L'arrivo di Peruzzi, di alcune figure chiave, secondo me, nel rapporto tra squadra, un presidente che secondo me ha parlato anche un po' meno in questi anni, e questa cosa in certi momenti secondo me è stata un'idea giusta di comunicazione da parte di Lotito. E poi ovviamente i risultati, perché poi i risultati sono quelli che cambiano, fanno il 90% del lavoro, no? Sì, Bruno, cosa pensi? È stato perfetto, viene descritto bene, ha capito che oltre al risultato, al tifoso in generale, forse in particolare al laziale, ci vuole anche un rapporto che faccia sentire gratificante anche il tifoso, per cui questo sta capendo con alcune operazioni come quella di Peruzzi e tante altre, questo gli va dato atto, perché il laziale è abituato anche a stare senza risultati sportivi, però come ti dicevo prima si vuole sentire a casa, si vuole sentire dentro quattro mura tutti insieme, nel bene o nel male. Questo per un periodo non c'è stato, adesso si sta ricompattando e per fortuna ci sono anche i risultati sportivi. Senti, Bruno, difficile, l'abbiamo detto nei giorni scorsi per Luigi diverse volte, toccare questa squadra, ti viene quasi paura a montare un pezzo di questa squadra, però chiaramente sarebbe migliorabile, sì. Dove secondo te? Ma io ho un sostituto di Lulic e un altro attaccante, perché per il resto a livello difensivo e centrocampo ci può anche stare, però se viene un raffreddore a Lulic piuttosto che a Correa e Immobile possiamo andare in difficoltà. È chiaro, migliorare è difficile, però tutto è migliorabile. È sottile la linea un po' del calciatore che dice mi arriva un giocatore importante, dopo alcuni equilibri vengono a mancare. Io sono di questo parere, perché quando un giocatore importante arriva in un club è sempre ben accetto e poi va a migliorare tutto quello che rappresenta la squadra. Sì, e poi si è detto Giulio, che in questi giorni anche, che insomma il momento, le stelle dicono che l'occasione sarebbe da sfruttare, se non per il bersaglio grosso, quantomeno per blindare la posizione in cui la Lazio si trova adesso, che è molto importante. Sì, guarda, è un discorso molto, Bruno lo sa bene, molto complicato da fare con la Lazio, perché la Lazio il suo metodo, Tare e Lotito hanno il loro metodo e fanno grande fatica a toccare l'equilibrio dello spogliatoio. Loro si sono affidati, Simone Inzaghi si è affidato a uno zoccolo duro, forse è stato anche un po', è il segreto della Lazio, quello di aver cambiato poco in questi anni, di essersi affidati a dei senatori, Radu, Lulic, Immobile, lo stesso Leiva, Parolo, che stanno dando, insomma, che spiegano anche cos'è la Lazio ai nuovi arrivati. Insomma, è un gruppo interno dello spogliatoio molto forte, e poi magari aggiungere un tassello per volta. Ogni estate, l'anno scorso Correa, no? Quest'anno Lazzari, eccetera, e si è creato questo piccolo, no, orologio svizzero che è diventata la Lazio. Quindi io non mi aspetto, sinceramente, ha ragione Bruno, cioè io idealmente direi che manca quello che dice lui, cioè il dice Lulic più magari affidabile, una punta in più perché veramente Correa, Immobile e Caicedo poi basta. A centrocampo c'è Berisha che è stata una grandissima delusione, se andrà via lui, uno per esempio me lo aspetto a centrocampo, perché anche lì nei tre di centrocampo qualcosa a livello di rosa, cioè di riserve si può fare. Questo è quello che servirebbe a livello ideale. A livello pratico io non mi aspetto francamente nulla, nel senso che non credo che la Lazio andrà a comprare, a meno che uscirà, come penso, Berisha, si troverà qualcosa per Berisha, c'è il Brescia, so che lo vuole, qualche altra squadra, allora forse lì potrebbe arrivare qualcuno a centrocampo. Ma parliamo sempre di nomi che non andrebbero comunque a diciamo minacciare la titolarità di chi adesso insomma gioca dall'inizio. Sì. Sempre sì, poi Pierluigi lo sa, quando c'è il mercato, no, estivo, si fanno le pagelle, la Lazio prende sempre 5,5-6. Questi voti qua è Pier. Poi noi a dire che la Lazio ha fatto un grande mercato, perché? Perché non ha venduto quelli bravi, poi ti arrivano. Il mercato è entrata e uscita, cioè, è forse più importante quasi vendere bene o non vendere certe volte i giocatori che, per i quali hai delle offerte, piuttosto che comprare. Sì, sì, quello che è successo al Napoli quest'anno con Manolas e Albiol, no? Il famoso teorema Cassano che ha detto alla prima puntata. Cioè, Manolas è un grande giocatore, non sta facendo una grande stagione sicuramente, però era un grande acquisto, tutti, pure io, insomma, tutti ci siamo lanciati in estate a dire che coppia pazzesca è Koulibaly Manolas, e ci siamo dimenticati Albiol, che era un giocatore importante, che forse dà più equilibrio, magari è meno forte in valore assoluto, è meno esplosivo, però forse si adattava meglio alle caratteristiche di Koulibaly. Ho fatto il primo esempio che mi viene in mente. La Lazio non vende nessuno, la Lazio vende soltanto in casi esagerati, e questo va riconosciuto allo Tito, perché comunque l'offerta per Milinkovic prima del mondiale gli è arrivata, come no? Quello che so, poi Giulio, l'esperto del mercato, era un'offerta a tre cifre. Quindi poi c'è anche questo, no? Poi è chiaro che lo dico, non è quello che fa l'acquisto da 90-100 milioni di euro, ma anche per un discorso di fatturato. Però è vero pure che ha costruito un meccanismo collaudato. Io volevo chiedere a Bruno un parere su Immobile, non un parere, ma insomma ce lo inquadri nel pantheon dei grandi attaccanti italiani, perché insomma i numeri di questo ragazzo sono da top assoluto. Sì. Quando è arrivato qualcuno non era contento, io subito così tra virgolette difeso, detto per me avrebbe fatto grandi cose, non mi aspettavo sinceramente tutto quello che sta facendo e speriamo continui a fare. È un giocatore adatto proprio per giocare in questa squadra, dove gioca in grande velocità, in spazi ampi, lui ha questo movimento ad allargarsi sulla diagonale che per il difensore diventa indigesta. È un giocatore trainante con i suoi comportamenti, perché non si risparmia mai, anche quando la palla sta uscendo fuori in fallo laterale cerca di rincorrerla. È un esempio un po' per tutti quanti, è un acquisto incredibile per il costo che è stato, credo 9 o 10 milioni di euro. Sì. È un giocatore che sinceramente mi aspettavo e facesse delle buone cose, però non a questi livelli. Sono contento che possa continuare su tutto, ma quello che sta facendo. Bruno, ma è un ragazzo semplice, umile, certo. Sono i ragazzi che mi piacciono e che meritano questo. Sì, esiste una ragione per cui facciamo così, sul fronte internazionale, quando ha giocato all'estero, quando spesso ha giocato con la nazionale, è diverso rispetto a quello, sì, che vediamo nella Lazio? Ma se riallaccio a quello che ti ho detto prima, è fatto apposta per giocare in questa Lazio. Perché la Lazio gioca, diciamo, in contropiede, diciamo con poco fraseggio, verticalizza subito e lui sfrutta queste sue caratteristiche, sono di velocità e di movimento. In una squadra, ecco, vediamo anche con l'Italia, che è portata a portare tanti giocatori nella metà campo avversaria, è costretta a volte a giocare di spalle con spazi stretti, e questo non lo facilita. È un modo di giocare che gli è un po' indigesto, sì. Appunto, giochi. Però ultimamente sta crescendo anche in nazionale, dal punto di vista dell'iniziativa, sì. Speriamo che continui. Sì. La motivazione è quella, dai. La Lazio gioca per lui, gioca per aspettare. Le due partite con la Juve sono state, da questo punto di vista, perfette, sì, certo. Perché hanno trovato tutte e due le volte la contromisura attesa ripartenza, e poi negli spazi questa è una squadra che si esalta, è Immobile è un giocatore che si esalta. Allora, a me viene in mente un'altra considerazione mentre invito gli ascoltatori se vogliono intervenire, 800240024 numero verde, WhatsApp vocali 349-238-6666. Un'altra considerazione, non è che Giulio sia un po' il disegno della sindrome Atalanta, mi spiego, diversi giocatori fuori da quel contesto non rendono come come lì. Poi c'è anche da dire, riallacciandosi al mercato, il voto 6-6,5 arriva dal fatto che prendi Lucas Leiva, Luis Alberto per 4 soldi dal Liverpool in uscita e non li vuole più vedere. Correa pure è stata un'invenzione di Tare. Acerbi è oggi probabilmente il miglior difensore centrale italiano, certamente quando è arrivato dal Sassuolo non era di questo livello. Immobile, possiamo andare avanti nella lista. Sì, sì, è così, guarda, sì, spesso mi chiedo, non so, infatti sarebbe interessante anche chiedere il parere di Bruno, di Pier, nel senso, Gomez, Ilicic un po' di meno perché insomma ha giocato già, no, nella Fiorentina, anche se insomma non era proprio titolarissimo. Per esempio su Gomez io, che la Lazio, che Simone Inzaghi ha chiesto, aveva chiesto un paio d'estati fa, però mi sono sempre chiesto se veramente lui... E proprio credo che Bergamo abbia trovato, nell'Atalanta, non Bergamo, proprio nell'Atalanta di Gasperini, credo che lui abbia trovato la dimensione ideale. E credo, no, il tuo discorso è giusto, io credo che Ciro sicuramente nella Lazio abbia trovato la sua dimensione, c'è un rapporto con Inzaghi incredibile, perché poi c'è anche questo nella Lazio. È vero che ci si riempie la bocca sempre con questo termine gruppo, no, che è super abusato, però insomma a volte Bruno lo sa bene, fa la differenza in maniera clamorosa. Nella Lazio è così, cioè c'è un gruppo anche di amici, non so, a volte può diventare anche una controindicazione, no, l'amicizia tra un allenatore come Simone Inzaghi e Ciro Immobile. Abbiamo visto quella famosa reazione contro il Parma, quello che è successo dopo. Però io credo che uno dei segreti di questa Lazio sia alla fine questo, e questo ti porta poi a dare qualcosa di più anche in campo quando sai, quando c'è un'unità diversa tra i giocatori. Credo che Ciro abbia trovato qui quel tipo di situazione che diceva Bruno prima, penso che l'ha detto anche la sua moglie Jessica qualche giorno fa, penso che dopo 7 traslochi cioè, penso che si possa fermare, io lo spero obiettivamente per la Lazio. Sì, tutti amici, Bruno, come nella Lazio del 74, uguale. Uguale, guarda, uguale proprio. Non può essere. Allora, sentiamo Stefano da Genova, buongiorno ascoltatore. Buongiorno, è tifoso della Lazio. Dica. Saluto Giordano, il suo grande estro. Volevo fare una domanda e riportare anche la questione a una dimensione storica che la Lazio ha, no? Che cioè, arrivò, mi pare, 2 volte in finale di scudetto prima delle guerre, con il Casale, mi sembra, le perse, o il Provercelli, non ricordo bene. E poi c'era una domanda che vorrei fare, è quella che mi pare che fosse stata sollevata una questione da Lotito su uno scudetto ex aequo col Genoa. Per una finale non giocata, se qualche tempo fa se ne parlava. Volevo, se voi siete informati su questo, capire un po' qual era questa situazione e sapere se poi aveva avuto uno sviluppo. Ecco, tutto qui. Attingiamo alle conoscenze di Giulio Cardone. Sì, sì, è una situazione assolutamente viva, è assolutamente in ballo e si aspetta una decisione da parte del Consiglio federale. Ha creato una commissione, l'aveva già creata in realtà una commissione di saggi che si era espressa favorevolmente rispetto alla decisione di assegnare ex aequo a Lazio e Genoa, quindi Genoa è ufficialmente campione d'Italia, ex aequo anche alla Lazio, dello scudetto, parliamo dello scudetto 1914-1915 col campionato interrotto per lo scoppio della guerra e della prima guerra mondiale. E quella commissione di saggi aveva dato parere favorevole, cioè aveva detto effettivamente, visti gli atti, visti i documenti, studiato tutto, sarebbe giusto dare lo scudetto ex aequo anche alla Lazio insieme al Genoa. E dopodiché insomma la cosa si è un po' ingolfata nelle sabbie mobili della burocrazia federale. Adesso è stata creata, organizzata, allestita un'altra commissione, tra l'altro presieduta da un giornalista molto in gamba che stimo molto come Matteo Marani, anche lui appassionato di calcio, di cose storiche del calcio, ed è che è chiamata a pronunciarsi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Io è una buonissima domanda quella dell'ascoltatore, perché è una situazione che al tifoso laziale sta molto molto molto a cuore, non tanto per mettere il trofeetto in più, lo scudettino in più, ma perché insomma quella situazione storica, il laziale è molto legato, come abbiamo visto, come stiamo dicendo, alla storia, e quella situazione lì, in quella squadra poi ci furono giocatori che sono stati costretti a partire per il fronte e morirono proprio alcuni atleti, non soltanto del calcio, proprio della polisportiva, no? Che è la più antica d'Europa, ma anche proprio calciatori di quella squadra che sono morti, insomma, sul fronte per l'Italia, no? Per cui c'è una situazione che collega tante realtà, e io credo che alla fine sarebbe giusto, insomma, assegnare questo Pierluigi, io e te non ce la caviamo più, con tra scudetti in segreteria e queste cose qui, No, ma secondo me quello che dice Giulio è giusto, cioè più che altro credo, da quello che ho capito, il riconoscimento a una serie di atleti che poi hanno vissuto un'esperienza ovviamente sfortunata. Poi, insomma, credo che i festeggiamenti riguardino il presente, insomma, festeggiare uno scudetto di tanti anni di distanza non so esattamente che tipo di gusto possa dare, però è una battaglia storica, secondo me interessante, quindi è giusto che si va avanti con questa commissione. Allora io volevo chiedere a Giulio, che comunque si occupa di mercato to cure, no? 360 gradi, di farci un pronostico sul colpo di questo mercato di gennaio, se ci sarà e che cosa ti aspetti. Già c'è stato Ibra, perché da Kulusevski da giugno. Ma guarda, si parla moltissimo, Pier, di, come sai, di Vidal, perché Conte veramente lui è assolutamente concentrato su questo obiettivo già da quest'estate. Però francamente Marotta ci spera tanto, dice insomma di aspettare metà gennaio, però sinceramente o il Barcellona sta nascondendo un obiettivo da centrare, da inserire nella squadra al posto di Vidal, altrimenti la situazione dei centrocampisti del Barcellona è tale che non autorizza francamente all'ottimismo, nel senso che Arthur ce n'avrà per tanto tempo, Busquets e Rakitic non stanno benissimo, sono corti, per cui o il Barcellona compra un altro giocatore di altissimo profilo ovviamente da Barcellona, oppure mi pare molto complicato. Ti parlo molto di Vidal, Pier, perché comunque siamo molto concentrati noi mercatari tra virgolette su questa operazione, perché davvero sarebbe molto molto, cioè sposterebbe secondo me gli equilibri del campionato. Secondo me tra i nomi che ho sentito è il giocatore, proprio per il suo impatto immediato, per il fatto che sappiamo quello che può dare, l'abbiamo visto anche un mese fa a San Siro, in Inter Barcellona, l'hanno visto proprio gli interisti un mese fa a San Siro, qui un Barcellona che era pieno di riserve, però che tipo di giocatore è, lo conosciamo, sono d'accordo. Secondo me ancora più di Eriksen è il giocatore che può in grado di fare la differenza subito, sì. Lasciami l'ultima battuta con Bruno Giordano, che poi saluto anche Giulio Cardone naturalmente. C'è un ascoltatore, Federico, che da Siena, che scrive: si parla poco di Simone Inzaghi, ma secondo te, abbiamo fatto il discorso dei giocatori che magari da un'altra parte non riescono a rendere quanto rendono nella Lazio, io sarei curioso di conoscere anche il valore assoluto di questo allenatore, Bruno. Ma lo sta dimostrando, insomma, ha dimostrato nel tempo, perché poi una stagione ti può andar bene, ce ne sono tanti di esempi. Lui da quando è in sella alla Lazio è stato un crescendo, ha vinto Coppa Italia, Supercoppa Italiana, ha posizionato sempre la Lazio, tranne l'anno scorso, in classifiche a ridosso della Champions. Poi è un allenatore importante che chiaramente in questo ambiente sa come comportarsi, si esalta, perché c'è stato anche da calciatore. Qui si può permettere, tra virgolette, anche di sbagliare una sostituzione, però sta dimostrando con il lavoro, ragazzo serio, ragazzo che pensa esclusivamente alla squadra. Questo si vede e riflette proprio nel gruppo e soprattutto nei risultati. Grazie Bruno, grazie, un abbraccio. Un abbraccio a tutti. Ciao a Bruno Giano, grazie Giulia, a presto. Ciao, a presto, ciao, ragazzi. Ciao. Ciao Giulio Cardone. Allora, fermiamoci per la borsa, in ritardo chiedo scusa, torniamo con Adriano Panatta, parliamo e andiamo anche dall'altra parte del Tevere, essendo Panatta romanista, ha scritto un libro interessantissimo. Sento che giustamente, costantemente vi complimentate con la Lazio per i risultati e così, però vi faccio una domanda: ma dove sarebbe realmente la Lazio senza i 16 rigori che gli hanno dato in 18 partite? Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Allora, com'è là fuori? 10 gradi sotto zero e una terribile bufera. Neve e ghiaccio dappertutto. Tempo perfetto. Ok, GLC, questo è il nostro momento. Sfida l'inverno con la trazione integrale 4MATIC del nuovo GLC. Oggi hai 4.000 euro di ecoincentivo Mercedes-Benz su tutta la gamma GLC. Se permuti la tua auto da Euro 0 a Euro 5. E con MyDrive Pass scegli la soluzione finanziaria più adatta alle tue esigenze. Scopri di più su mercedesbenz.it. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. Convocati. Una domanda: perché la Lazio è fuori dalle coppe europee quest'anno? È stata eliminata in Europa League, non so se sottintendesse qualcosa di più sottile. Pierluigi Pardo, correggimi se sbaglio, ma è stato Ferrara a dire, magari da te anche, che il calcio l'ha inventato il diavolo? Beh, l'ha detto 2-3 anni fa, sì, comunque sì, sì, sì. Sì. Tempi della Champions, di Premium. Adesso scopro che anche il tennis l'ha inventato il diavolo, lo dice Adriano Panatta. Ciao Adriano. Ciao, buongiorno. Titolo del suo libro, il tennis l'ha inventato il diavolo. Come la mettiamo? Il calcio e il tennis? Il prossimo gioco non so. Perché l'ha inventato il diavolo? Parli con me o parli sì, con te? Sì, con te Adriano. Ma mentre non diamo perché è un gioco diabolico. Diabolico perché, sai, il calcio, anche lui, tutti gli sport sono un po' diabolici, no? Per certi versi. Tennis si dove un po' di più perché fino all'ultimo non è mai finita. Sai, il calcio, se manca un minuto, sei 3-0, non credo che possa succedere qualcosa. Nel tennis può succedere qualsiasi cosa, basta niente che la partita si può ribaltare. Per cui succedono tante cose durante un match che io lo dico da tanti anni, per cui non so di chi è il copyright di questo. No, giocatevelo tu e Ferrara, diabolico. Il anche match più diabolico della tua vita, Adriano? Il match più diabolico della tua vita? Sì. Se ci vede tempo ve ne racconto. ce l'abbiamo, vai. No, forse hanno perso Wimbledon quel match contro tutte in maniera proprio da creativa, devo dire. L'unico match che mi è rimasto un po' sul gozzo, devo dire, è un match che non potevo perdere assolutamente, che invece sono riuscito a perdere, ma lì non ci intendiamo, lì probabilmente è colpa mia, poi alla fine siamo sempre responsabili di quello che succede, però ci sono delle cose abbastanza magiche, maligne, che possono capitare durante un match di tennis. Non basta niente, una palla che va fuori, un dito, un net, una cosa del genere, che la cosa può cambiare. Stefano Melocaro è piuttosto diabolico. Buongiorno Stefano Melocaro. Beh, però noi siamo qui soltanto per genuflettersi esatto. Sotto Adriano Panatta e dire sempre che mica, Adriano mica, comunque... sai, dice cose mica ci crede queste cose che... è tutto vero, tutto è vero. Un fantasone totale, amico di Pietro Lucci, noi crediamo in un solo Adriano Panatta e tutti siamo qui perché lui ci ha generati. Col telefono vale. Adriano. Sì, vabbè, va. Adriano. Ancora col Sassuolo, non ne posso più. Adesso, però devi considerare che a me mai cambiato l'infanzia. Oh, io rassegnati, ci hai cambiato la vita, Adriano. Sì, in peggio spero. Ascolta, ma mi piace da morire il tuo libro, che hai diviso, hai individuato 9 gironi infernali, i gironi dei diavoli a 4, il girone della sfiga che è meraviglioso, dei malati di mental tennis, poi c'è dei giorni dei fantasmi dell'antico maniero, delle vite difficili, qui potremmo, invece di 5 capitoli possiamo farne 1000, compresi me, Pardo e in parte Meloccaro, i gironi Berrettini, i diavoli del futuro, no, sui malati di mental tennis. Stavo leggendo su Corriere della Sera di Zverev e Tsitsipas che menano il padre, ci litigano, gli spacca la racchetta in testa. Dove vanno loro? Girone de che? Stanno mica tanto bene. A parte tutto, cioè, hanno 20 anni, no, hanno già guadagnato per tutto quello che possono guadagnare nella vita anche un bravo manager. Sono davanti a una carriera meravigliosa, sono belli, gagliardi, forti, alti e quant'altro, e si mettono a fare le cose in campo. Bisogna essere proprio stupidi, adesso onestamente non è perdonabile una cosa del genere, perché è vero, in campo si stressa, c'è tutto quanto, però con tuo padre, quell'altro gli dà una racchettata, quell'altro l'ha insultato, insomma è una cosa che, meno male che mio padre veniva poco, poi si parla che questa colpa dei padri che vanno sempre in giro con questi figli, ma lasciateli in pace. Ho trovato un mestiere, no, il mestiere di padre. Dice, che fai di mestiere il padre del tennista? No, mi sono d'accordo, eh. Io farei, vieterei i campi di sport ai genitori, perché fanno un sacco di danni, che vadano lì, si divertano, siano se stessi e lasciamoli in pace. Ma non tutti i padri, devo dire, ci sono dei padri che sono troppo oppressivi nei riguardi dei figli. C'è stato un periodo in cui i padri, soprattutto con le ragazze, erano dei mostri, cioè queste ragazzine che le facevano allenare 5-6 ore al giorno, non facendo vivere la loro età, insomma, è una cosa che io non ho mai sopportato, non ho mai visto di buon occhio i genitori che seguivano i figli ormai grandi, perché non sai, 21, 22, 23 anni, sei grande, insomma. Certo. Fai il professionista e non c'è bisogno di tuo padre. Ingerenze inopportune, certamente. Veniva a vedermi l'internazionale d'Italia, vedevo su tribuna, devo dire che mi rassicurava, non è che se giocavo male me la prendevo con lui o con mia mamma, insomma, no. Dipende con te stesso. Quando d'altra parte, spesso, Stefano, tennisti sono gente che vive sull'orlo di una crisi di nervi, ne sai qualcosa? No, qua, oggi, sai, al tempo quando giocava Adriano era un po' diverso, oggi sono praticamente tutti matti, nel senso che una dose di pazzia c'è in tutti quanti. Sì. È anche vero però che sia Tsitsipas che Zverev, voglio dire, sì, hanno fatto queste scenate con i padri, ma sono stati proprio i padri che li hanno fatti diventare giocatori, per cui è un rapporto molto torbido quello del padre che ti allena anche. Dall'altra parte esiste pure il caso Sinner, no? Il nostro giovane ragazzino, la grande promessa del tennis italiano. Sinner ha due genitori meravigliosi che praticamente non sanno neanche esattamente bene di che sport si occupa il figlio. Sono talmente esterni che è positivo. È molto positivo, sì. Per cui ce n'è di ogni. Sì, ho capito, però anche sì. I padri, tutti i padri ti aiutano a diventare uomini o donne, diciamo, no? Adulti. Poi a un certo punto devi tagliare il cordone umbilicale, insomma, che fai un giro col padre, dai, adesso. Guarda, poi cosa mi viene in mente? No, ce l'ho zio, per cui il zio già è meglio del padre. Tanto dicevi, Pierluigi? No, dico anche Agassi, insomma, abbiamo letto la biografia a proposito di grandi libri di sport, insomma, il rapporto, cioè, in certi momenti può diventare un rapporto anche ossessivo con lo sport. È chiaro che in uno sport individuale le dinamiche sono completamente diverse, perché non c'è filtro, non c'è neanche lo scudo dello spogliatoio, e quindi cambia tutto. E da questo punto di vista forse è ancora più vero che l'ha inventato il diavolo, perché non hai nemmeno un elemento di mediazione con i tuoi compagni di squadra. Se entri in una situazione di follia positiva o negativa, può essere anche appunto una magia positiva in certi momenti, quella cosa lì te la vivi da solo. Non so il coach, sì, perché, quanto possa aiutare il coach può aiutare, se uno che capisce di tennis, oppure una persona di cui tu hai fiducia, ti rassicura, ti rende abbastanza sereno durante il match e soprattutto prima del match, però la verità è che i giocatori di tennis, i professionisti, vivono una solitudine assoluta per quanto riguarda mentre giocano, no? Intanto non ci sta il coach in campo, allenatore in campo, non ci sta. Per cui non è che Sì, dagli spalti ti dicono qualcosa, ma insomma non è che a cambio di campo c'è qualcuno che solamente in Coppa Davis ci sta, no? Per cui tu giochi 4 ore, quant'è un match importante, e tu devi risolvere i problemi da solo. Se fuori del campo ti risolvono tutti i problemi, qualsiasi problema che tu possa avere, e poi quando sei in campo hai qualche difficoltà in più, no? È come quando tu cerchi, io sono padre, insomma, sono anche nonno, tutto, ma cerchi di educare i tuoi figli in una certa maniera, se tu li risolvi ogni problema che hanno, non crescono tanto bene. Per cui anche fuori del campo, se noi possiamo anche un pochino di essere un po' da soli e crescere anche facendo un'autocritica, se uno riesce a avere il cervello per farla e capire certe cose, poi viene aiutato, per carità, non deve essere tutti da soli. Però è un percorso complicato, però, a quell'età tu lì. Ogni volta c'hai sempre tuo padre, che probabilmente è la persona a cui tu ti senti più vicino, a parte tua mamma, insomma. Ti risolvi i problemi fuori del campo, e poi quando sei in campo ti parte la brocca, diventa più complicata. Sì, ma non tutti, però insomma, adesso vedi, Federer c'ha sempre dietro la moglie e i figli, no? Io potevo impazzire se fossi stato, capito, la moglie sempre dietro, cioè, penso che la uccidevo dopo 2-3 tornei. Che poi uno possa da solo, non può mettere le palle, cioè sai, i momenti in cui deve riposarsi, cioè. Sì, sì, oppressione vivi sull'orlo di una crisi di nervi, e certe volte hai bisogno della tua solitudine, di non avere nessuno, neanche le persone con cui vuoi bene, che ti rompono le scatole. Un attimo di pausa, traffico, giusto qualche secondo, e poi vorrei chiudere con Adriano Panatta, ovviamente con Stefano Melocca e Piero Luigi Pardo, su un altro tema di questo libro, cioè i racconti romani, e qui ne abbiamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Perché ogni capitolo di questo libro si chiude con i racconti romani. Allora abbiamo Internazionale alla Diavola, James Blake, L'esorcista della sfiga, eccetera, eccetera, eccetera. Un tuo racconto romano, Melocaro? Beh, il mio racconto romano è di quando andai a vedere Adriano Panatta l'ultima volta che ha giocato a tennis a Roma, cioè in Coppa Davis contro l'Argentina, e quello. Perché fu un momento molto bello, perché sapevo che mi stavo godendo Adriano per l'ultima volta, e convinsi dei miei amici, io venivo dalla ridente località di provincia di Rieti, andammo in 4 in 500 e io convinsi tutti i miei amici ad andare a vedere Adriano che giocava l'ultimo match di Coppa Davis con Bertolucci contro l'Argentina. Risultato lasciamo perdere. Stiamo perdendo il risultato. Poi, ma perché si ricordano sempre quando perdo io? Ma perché? È una cosa che mi tormenta tutta la vita, anche da mia occa. No, invece io c'ero anche quando Adriano vinse, ti ho visto vincere delle grandi partite. Quindi l'ha arrangiata così. Tu, Pierluigi, hai un racconto di romano di tennis? Io l'ho visto solo vincere, ma poi ho incontrato anche gli internazionali. No, vorrei coinvolgere nel ragionamento un grande che è a metà, ovviamente, tra il tennis e il giornalismo, che è Giampiero, che insomma è nel nostro cuore ed è un pezzo importante della tua vita, no, Adriano? Giampiero abbiamo lavorato insieme, sono dei racconti meravigliosi. A parte che Giampiero è un professionista pazzesco, cioè io quando cominciò a lavorare con lui avevo anche dei dubbi, invece è uno preparatissimo, che studia, che si prepara benissimo per quanto riguarda le telecroniche, però l'ironia di Giampiero, tutti e due messi insieme, infatti pensa che il direttore di Rai Sport, mi sembra Paolo Francia, che è stato anche vicepresidente della federazione, una volta mi chiamò dicendo: voi scherzate troppo quando fate le telecroniche, dico. E adesso ci vuole molta pazienza, ci vuole molta pazienza, perché il nostro modo di fare è anche un po' romano, un po' dissacratorio. E adesso invece vedi tipo Menocca, Roberto Lucci, i professorini, Cattelavatta, serissimi, non scherzo. Tucci cerca, perché tu cerca ogni tanto di fare lo spiritoso, non ci riesce. Puoi benissimo. Difenderti a Menoccaro? Ne hai facoltà. Non abboccare. Ne hai facoltà. No. Io ripeto, quello che dice Adriano Panatta va scritto immediatamente sulle tavole della legge. Ma è insopportabile. Posso dire, lo dico da romano, che secondo me una certa idea della romanità, appunto, di questa comicità un po' noir, un po' spietata certe volte, un po' dissacrante, proprio, cioè, Adriano e Giampiero la rappresentano nell'essenza veramente più profonda. Quindi questo secondo me è oggettivo e penso che lo percepisco io che sono nato a Corso Trieste, ma lo percepisce anche chi è nato a Bolzano o a Palermo, no? È un pezzo della storia di questa città e del modo di vivere, di drammatizzare, di vivere tutto tipico dei romani. Quindi questo secondo me non è proprio oggettivo, è pacifico. E include anche Menoccaro in questa descrizione, in questa tipologia. Menoccaro sì, anche se continua a sfuggirmi a padel, perché io l'ho invitato varie volte la settimana e continua. Mentre io invece ho avuto la fortuna di giocare a padel anche con Adriano in qualche occasione, devo dire che comunque quando Adriano gioca la volée bloccata, è l'unico giocatore di padel in Europa che riesce a giocare la volée bloccata a padel, non fa nessuno, la fa solo Adriano perché ha quella mano lì. Io non mi sono mai accorto di questa volée bloccata. Cos'è? Ancora con la volée bloccata. Come giochi? Io? Sì. Come gioco? Beh, io, considerati 120 kg, la ginocchiera incrociato, gioco certamente. Insomma, già riuscire a giocare con gente che gioca tutti i giorni e che magari ho giocato con Mancini, con Marchezzani, con Marcolì. Insomma, cioè, già il fatto che non mi caccino, e questo è già un buon risultato. Menocchero gioca bene, padre. Gioca bene anche a tennis. Un bello stile. Eccoci, collegati. Dov'è Angelo Mangiata? Ieri era Pitti, no? Non ci siamo visti per due minuti. Senti, un'ultima cosa, Adriano, racconti romani che riguardano non il tennis ma la cronaca di questi giorni, alla festa della Lazio, hai te e l'addio di De Rossi, che ne pensi di questi due spot, di questi due racconti romani relativi al calcio? Della Lazio lascio qualcun altro. Lasciamo perdere, va bene, lasciamo la solita Menoccaro. Niente contro la Lazio, non è che seguo tantissimo. De Rossi, sai, De Rossi è stato un grandissimo giocatore, simbolo. Sai, io non voglio fare polemiche, però io detesto questo andazzo che c'è stato con tutti le bandiere, da Rivera a Totti, ci hanno provato con Del Piero, cioè, che non c'è più questo ultimo rispetto per i giocatori che hanno dato tanti anni della loro vita a certe squadre, no? Sono dei finali orrendi. Trovo che purtroppo è tutto cambiato, come sono cambiati i giocatori di tennis, come sono cambiati i tornei di tennis, probabilmente è così. Adesso ci sono gli americani che si comprano le squadre. Pensa solamente 30 anni fa che arrivava l'americano a Roma, gli vendevano la Fontana dei Trevi, non è che gli vendevano a Roma. E adesso è tutto così, è tutto asettico. E io rimpiango Sensi, Viola, dei presidenti straordinari. Adesso io non li conosco, sono persone degnissime, perché però per tutto quanto così, diciamo che sono un po' distanti, è quello che si rimprovera loro. Grazie Adriano, abbraccio. Grazie a voi, ciao. Voglio bene a tutti. Ciao. Anche a Menoccaro. Anche oggi non ci sarà il cambio. Non ci sarà? Non c'è neanche oggi, non giocherà anche oggi, non può mai. Chi? Un po' male, è Menoccaro, non... Però mi è parso di intuire una voglia di sfida a te, Pardo, da parte di Panatta. Quando vuole. Magari. Così vedo sta volée bloccata. No, beh, la volée di Adriano è una delle cose veramente più sexy del XX secolo è stata, quindi voglio dire. Così. Senti, Stefano, ma gli Australian Open flambé si giocano o no? Sì, alla fine pare che si giochino, perché comunque la situazione sembrerebbe... insomma, che lasci giocare a tennis, ecco, almeno questo rimane grave. pare proprio che si giocherà. Carlo, ci sei domenica da me in trasmissione? Sì, no, volentieri. Okay. Sunday morning, domenica. Ora 12:14. Benissimo, così diamo questo annuncio pubblico, molto bene. Grazie Stefano. Prima o poi deve venire anche Pardo con vinile. Quando vuoi. Ma te lo porto quando io. Vuoi. Passo quando a prenderlo. Quando vuoi tu. Mettetevi mettetevi d'accordo. Così, insieme. Partita a paddle e Sunday morning facciamo, facciamo tutto un pacchetto. Grazie ragazzi. Un abbraccio a tutti. Televisiva radiofonica. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Claudia Schiattone, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao. È stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.